Estate, estate, è ora di azzurro, balla, balla. Senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Hai il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e baobab. Facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dove. Viva l'estate! Azzurro il pomeriggio.